Ciao Antu. Oh, ciao Gabri. Vabbè Antu, allora. Allora, oggi al lavoro, domani mattina finalmente al lavoro, domani sera al lavoro e domenica al lavoro. Oh, finalmente un po' di cose. Quello è il subane subane, però riesci a farti la spesa e riesci a tirare avanti. Oh. È positivo, meglio così. Meglio così, Antone. Sono contento, sono contento. Io quando le persone lavorano, guarda, sono il più felice del mondo. Perché il benessere si vuole per tutti. Per tutti, Antone. Vai così. Una canzone faceva, vai così che è una figata. Vai, vai. Lavora, lavora. Ma ho fatto una pizza oggi, ne ho preparata con la moto. E ormai che ho il corpo bello largo, quindi ci stava tutto. No, sono contento, guarda, che ho comprato di tutto. Cazzarola. Quando uno lavora, cavolo, mi sta dando 30 euro ogni volta che vado. 30, adesso prenderò 30 euro la mattina e 30 euro la sera. Sono 60 euro, andano i vecchi, cavolo. E fanno bene sì, tanto l'importante è che paghino la giornata e del resto fregatene. Del resto fregatene Antu. Trova qualcuno però che ti faccia contratto a tempo indeterminato, così hai la sicurezza ogni mese, ti puoi prendere un impegno anche, una cosa e sei più sicuro. No, io sono sempre andato a travagliare, sempre, sempre, sempre. Anche là quando è sempre preciso, anche con gli orari, mai sgarrato nulla, mai problemi, mai niente, mai nulla, nulla. Oh, l'antrodio. Dimmi. Ascolta, guarda che ho una busta di pupazzi, billi, lavati e per profumati, se ti interessa, ci troviamo e te li do. Ok, ok, sì, sì. Non c'è problema. Anche io ho qualcosa. Ok, allora ci vediamo e me li dà, se non c'è problema. Guarda, per Gabriele questo qua è un terno all'otto, è un secondo Natale. Sì, sì, adesso speriamo che si riprenda, poverino, che stava male. Davvero? Cosa? Influenza? Sì, c'ha quella cosa che viene alle orecchie, come ti si chiama, l'otite mi pare. Cos'è influenza? Ma cos'è stato? Cosa ha avuto? Poi ha avuto l'influenza, adesso gli abbiamo dato gli antibiotici, lo stiamo curando. Già da oggi ha cambiato un po'. E no, a Giudita adesso mi ha rotto le balle sta dottoressa. Cioè, dice, non mi risponde, mi ha detto mia moglie, ah vabbè ben su io. E ho mandato il messaggio, mi ha detto, mi porti subito, gli ho mandato io, gli ho detto, guarda cosa vuole fare, gli ho detto. Il bambino sta male, gli ho detto. Mi faccia sapere subito, se no devo provvedere in diversa maniera. In diversa maniera, gli ho detto. Come ti inteso in diversa maniera, mi ha detto me lo porti a mezzogiorno e mezza. Ah, allora intende l'italiano. Aspetta, scusa Gavi, aspetta, che dottore sei? La Mura. Vabbè, io di nome non la conosco, dove rimane? Ah, la Teodolce, in via Spinola. Però io già mi sono impegnato a farlo visitare subito il bambino. Ha detto se non mi visita il bambino sono cavoli a mare, lo porto a pronto soccorso, poi vedono loro di fare la segnalazione, perché è una cosa grave. Come ti hai inteso che gliel'ho detto io, subito mi porti a mezzogiorno e mezza, me lo porti subito. Ok, va bene, ho portato, ho fatto le medicine e grazie a Dio stasera un po' meglio. No, giusto per capire. Sì, breve, conciso. Via Spinola, dove rimane? Ma non è Sant'Orsola. Antidozie. dove c'era una volta la panettiera a Cesaraccio, una busta, un bellino in puvà, c'era la cosa, la frutta e verdura, lì rimane. Ah, basta, basta, no. Pensavo che era la stessa dottoressa che io che è a Sant'Orsola. Ok, vai Gavì, vai. E dove, vicino dove abitavi tu, dove c'è nella traversa a fianco a Cesaraccio. Cavolo, allora io magari ci sono passato, non decine, no, centinaia, anzi forse migliaia di volte, ma a me le vie, guarda, credetemi ragazzi, le vie almeno mi rientrano in testa, non proprio, non riesco a memorizzarle, non riesco a meno che proprio non abitui, allora sì, se no, guarda, sicuramente è proprio vicino a casa. È vicino a casa tua, sì, è vicino a casa dove abita Antonella, dove abitava tua madre. In pratica è la via che scende verso casa tua, verso la via dove c'è la pizzeria mia cognata. E fa d'angolo, in pratica tu scendi dal, diciamo, dalla via dove sono le porte e poi devi girare a destra per andare, cos'è quella lì? La via a fianco a Cesaraccio. Il pezzo di via. Questa è la mitica e inimitabile via Marco Polo, cioè non so se mi spiego, dove sono nati i miti, i grandi, io. Via Marco Polo, esatto. Tua cognata, ma per caso lavora nella pizzeria da Nico? Cosa, Antu? Ma chi è tua cognata? Quella ragazza che vedo nella pizzeria da Nico? Ehi, non sperperare però, Gavi, non dire niente. La padrona, Antu. E fai via a dire chi è e chi non è. Ma insomma, qua le cose sono serie. No, che poi io memorizzo subito, me. Ma poco gioco attento. Comunque quella è la mia via, per carità, troppo bella, un'infanzia bellissima. Allora tu pensa, Gavi, io sono nato in via Marco Polo, numero 9, ok? Poi sono andato al monte a abitare in via Romangia numero 4, che era angolo via Grazia d'Aletta e via Marghinotti, dove mio padre aveva il bar. Poi sono riandato ad abitare per tantissimi anni in via Marco Polo numero 7, praticamente il numero 9 era a casa di mio zio e il numero 7 era a casa nostra. Quella è una via mitica, dietro Barsana. Sì. E ce l'ha anche mia figlia con la pediatra, però boh, quando ho preso gli appuntamenti era sempre puntuale. Antu. Non abbiamo, grazie a Dio, fino ad oggi non abbiamo avuto problemi con quella lì. Addirittura a volte l'ho portata anche io, e una volta o due volte l'ho portata io. E sembrava tranquilla anche. Ma scusate un attimino, perché lì c'è una dottoressa, C'è una dottoressa, vabbè, non mi ricordo che numero è, però diciamo che a metà della via. State dicendo a quella? No, questa è proprio all'ingresso della via sulla destra. All'ingresso della via, quindi partiamo non dalla discesa di Cesaraccio, ma un po' prima. La pediatra. Ah, c'ho, a fianco alla parrucchiera. Ah, ho capito. Quella lì, Anto. E la pediatra. È quella lì? E proprio dove c'era la cosa, c'era la... La, come si chiama? La frutta e verdura. Dove vivi? Proprio il portone appena attaccato, già è chissà già. Quella lì è. Ma cos'è la pediatra di tua figlia? Buona è. Buona. Se mi pare un liquipina. Adesso lo dico a Manuela, così impari. Qua Manuela. Faccio la cascetta, così impari. E qua, se la vedi sembra un incrocio tra uno scaldabagno e un coso, un passaggio all'inverno. Mi pare un equipina, mi pare. Anto, ma la pizza d'anico prendi? Sì, ne ho comprato tante volte. Sono andato anche lì un bel di volte a ordinarla. E a chi non ha nemmeno che non porta pizze? Se vi l'ha giudito. Lo stanno cercando perché gli figli lo mica. Sono te che non porta pizze. Sì, però tu le pizze le devi portare, non te le devi mangiare. Ehi, catta, se ti mangi tutte le pizze, te ne puoi... Da voi te ne farà la bocca che non ve la fai più. No, perché loro prendono la gente a lavorare, sono sicuro che sia così, prendono la gente a lavorare, ma non per mangiarle, prima le porti, poi magari a fine serata qualcuno te la puoi anche mangiare. Ho lavorato da cosa? Da Obelix ho lavorato anche. Era un buon noto. Zubis, c'è un mio... Allora, vabbè, non lo chiamo cugino perché non lo conosco neanche, però è una mia nipote. A Sassa del Vecchio che fa carne arrosto, questa roba qua. Non mi chiedo dov'è perché non sono neanche mai andato. Non so se li conosci. Fanno rosticiriano. Ma è via Catarocchino, no? E se ce l'ho detto, è lì, è. Angela, quella è mia nipote. Antu. Non dirà Vizzina Oggiano. Antu. Sì. Ma gliel'hai chiesto a Maria Grazia se le serve un portapizza? Io ho domandato a Edu, ma di dove ce l'abbiamo e cosa? Allora, domani lo chiamo io a Giovanni, a Filippo. Aspettate, prima di parlare con Maria Grazia, di parlare con Giovanni, che è il padre. No, Giovanni è anche il compagno. O chiudo il porto d'arma, voluti, No, no, no, il compagno. E poi lo dico anche a Giovanni, il padre di Maria Grazia. E quello è il porto d'arma, occhio. E anche la mira. Adesso mi sta chiamando questo qua, però potrei anche farlo magari un giorno che c'ho libero, ando per porto. No, esetta, non fermo un attimino una maglia, a Edu riserva una persona a tutti i lì, da lunedì alla domenica, non riserva una persona a giorno libero, a lui serve una persona continua tutti i giorni. 7 giorni su 7, Antù, A me mi ci ha messo tutti i canti di ghiso. Le dur la vite, le dur. Allora continua ad andare con quello, lui serve una persona, lui mi sembra che abbia lunedì di chiuso. Manuel, quando c'è il lunedì loro? Manuel, quando chiudono loro? Il martedì loro chiudono. Sì, adesso se capita che te lo dico, se mi abbandona chi ce l'ho, però poi meno male che mi sta chiamando. Se te lo dico e non vado più, se mi abbandona, capito? Aspetta, tu però il martedì è libero, però se tu vuoi continuare a girare per le strade, puoi girare lo stesso cercando di portare le pizze. No, è la benzina a bago io. No, vabbè, non ti dà... Puoi girare lo stesso, già non ti dice di non andare. Ma una volta l'ha già fatto. Chissà molto era cupiente era. E io sono mezzo pazzo pure, quando vengo con segno mi faccio uno scemo. Sempre nei dovuti modi, perché sono un bel veloce. Buscata mai questa moto per mettere una sopra il camper. Sto chiedendo. Ma pagare poco meno, è che. Cioè, poi se me la regalano ancora meglio. Sto chiedendo sto. Mi raccomando che sia nuova. Vabbè. Se ti la dà bene a gratis, non te la, cioè, te la metti a posto tu. Perché insomma, poi se prendo un ferro vecchio dopo mi costa più aggiustarlo che altro. Deve essere un po', insomma, un po' andata, dai. Come la tua, bene va. Scusate, devo fare un attimo di bianco, Più ho capito. Ok. Beh, la mia va bene. Buonasera, Illumi, buonasera a tutti, Ascolta, qua gente con i bip non li accettiamo, quindi o te lo toglio o te lo spaccio. Vabbè, passa a casa, qual è il problema? Stacca l'antenna, intanto me la dà tu? No, te la devo sfasciare, il bip, ti sfascio il bip. Ah, il bip, io pensavo l'antenna. No, no, il bip, che mi stai assurdando. Ciao Antonè. Ciao Tis, buonasera, ben sentito. Ascolta, quando sali a casa a controllare quel cavo di coso, di caminetto, così almeno se si può usare lo uso, solo se la piglia in culo lo va a fa in culo. Lo butto giù a un certo punto e mi piazzo un coso, un vibratore. Sarà anche lunedì sera. Ma non ti posso garantire che ti posso fare il lavoro perché sono incasinato nero. Nel senso che, ti spiego, non è che non te lo voglia fare, per carità. Il problema è che sono incasinato qua a casa, devo imbiancare da quanto è la casa. Devo togliere un po' di muffetta che ho in bagno e devo farmi una specie di studietto per poter mettere le radio in un'altra stanza. Quindi devo fare un po' di lavoro qua a casa e poi mi sta tartassando Walter. Devo fare lavori anche a casa sua. Ho capito. No, io stavo dicendo solamente di controllarmi il caminetto, se cioè, non so che problemi abbia più che altro, hai capito? Poi dopodiché a un certo punto si farà, non è che voglio fare altro, hai capito? È strano perché io ce l'ho 20 anni, quel caminetto non ho mai fatto niente, in pratica non. Il fumo rientra sempre indietro, il discorso è quello lì, da quando è stato costruito, tutto lì. E quello voglio capire, hai capito, te l'ho spiegato l'altra volta. In pratica, vedi, lo controllo e mi dice una cosa, se la buttare giù, si butta giù, va a far culo, boh, basta, lo faccio tappare e se la piglia in culo. Antone, buonasera, Gavino. Ciao Gavi, buonasera. Ciao Antone, ascolta, te la posso chiedere una cosa? Anche due. Ma il coccodrillo come fa? Il coccodrillo come fa? Ma mi fai, boh, io non capisco, il coccodrillo come fa? Aspettate, Antone, ti spiego una cosa semplice semplice. Allora, tu prendi un foglio A4, cioè presente? Un foglio normale, un foglio di carta, un foglio normalissimo. Lo prendi e lo accendi, gli metti fuoco dentro il caminetto, però ascolta a me e vedi un po' quando si spegne, se vedi che la carta bruciata tende a salire su, il caminetto sta funzionando bene. Se invece non esce, cioè non, il fumo esce fuori dal caminetto, vuol dire che è intasata la canna a fumare. Questo è un trucco semplice semplice che viene utilizzato per vedere se le canne fumarie sono attive o meno. Allora è meglio che vieni tu, che a me mi scappa la risa, lo sto dicendo io. È meglio che vieni tu, fregatele. No, aspetta, te lo rispiego. Hai il caminetto tu, no? Prendi e accendi un pezzettino di carta, un foglio di carta, un cosa ti posso dire, una bolletta che non vuoi pagare, avanti. Prendi e la metti fuoco e aspetti. Se vedi che il fumo sta tirando su bene, vuol dire che la canna fumaria è libera. E quando si finisce di bruciare la carta, tende a salire anche la carta, sempre se il caminetto è in ottime condizioni. Se invece la canna fumaria è ostruita e il fumo fuoriesce dalla bocca del caminetto, vuol dire che è intasato. Bravo, ci sei arrivato. Ecco, quello che volevo dire. Vabbè, è una cosa da controllare, dai. Antone. No, mi sa che è lui però. Oh, yeah, aspetta, ecco. cambio il bambino, va. Due secondi. L'importante, Gangoni. Già può rimanere con la portante inserita. Non rispondo. Morto, un ictus. Antone. Aspetta, Antone, non stai uscendo. Sì, di portante basta. Si sente il bip ma non stai uscendo. Ti stavo chiamando al telefono. Ma cos'è che non capisci? Se ti dico non stai uscendo. Antonello, ad assalità sia i microfoni. Ola, ola, ola, non sei scendi. Stai surriscaldando transitore e basta. Antone, ma come fa il coccodrillo? 1, 2, 3, 4. Neanche questo va bene. No, non è possibile. Come? Sì, non ci sei. Aspetta, sto facendo un box con Nicolas. Ola, ola, Coca-Cola. Ola. Cazzo di alabo. Aspetta un attimo. Se meno via. Vai, Antu. Ola, ola, Coca-Cola. Allora, com'è andata, Antone? Stai uscendo ora? Ha detto, aspetta un attimino. Stavo uscendo di portare, che poi lo stavo chiamando, non mi rispondeva, forse ho chiamato il fratello, buono, non lo so, no, ma penso che sia il suo. Forse ho svegliato a Giampiero, vabbè. Disturbando tutta la parentela, dai cugini, dei nipoti e cose. Sì, perché prima era il suo numero, poi l'ha dato al fratello, quindi, no, ma credo che era il suo, che stavo chiamando, perché c'era scritto Antonio Pomponio 2, quindi 2 vuol dire che è il suo. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, trova. Mi senti? Sì. Ciao. Adesso sì, chi ha detto ciao? Buonasera, adesso mi senti? Sì. Sì, aspetta un attimo, Gabriele, sei tu? Gabriele? Ciao, Greta. Sì, Gabriele, come stai? È Greta. Ah, Greta è. Greta! Ciao. Ciao. Ciao, bella! Ciao, l'ho combattuto. Pensavo che era Gabriele, il figlio di Antonio. Gli è venuta la babita. Ci vengremo, dai. Va bene, va bene. E beh, Antone, che microfono stavi usando? Scusa. Non ho fatto niente, la verità. Non ho fatto niente, boh. Strano che sia uscito così, boh, che non uscivo in radio, la verità. Adesso esco, sì. Non lo so. Sì, sì, Antone. Adesso stai uscendo benissimo. Adesso, ma cosa stai usando? Aspetta, se vuoi uscire, esci, non è che... se la tua compagna Simona vuole, esci. Sì, da casa sì, mi c'è venuta fuori la finestra. Allora, non vorrei immaginare la scena di un personaggio come Pomponio volando dalla finestra. Deve essere, secondo me vinci, Antonio diventi ricco. Ascolta, vabbè, non dico niente, fatti di lì. Antonio diventi ricco. Se tu se organizzi una cosa, a farti riprendere, ti devi fare un po' di salagessi, però se organizzi una cosa così diventi ricco perché ricevi miliardi di follower. Sì, sì, ma a parte non si fa niente, che è troppo basso. Rottola. Tiro. Sei basso tu, cosa... Ascolta, Tiro. Quello c'è... sempre più da ridere la vita. Quando c'è venuto il tempo, passa qua a casa, già lo sai, e così mi conto di quel capo di coso, di... Ma. Come si dice? Per salvarmi, in pratica. Mi conto di... Non la caldaglia, che non ne frega niente, la verità, ma comunque sia. Il resto, il mondo da poter riscaldare, se si può fare, il discorso è quello. Va bene, ascolta. E invece tu mi devi dire una cosa. Benito mi ha regalato il 2001 e c'è la scheda bruciata. Tu riesci a procurarmela una? Cazzo, la scheda bruciata, cazzo. Ma la scena, cazzo Benito, cazzo, una scena. Ma cazzo faccio io a buscare, cazzo, una scena? Una scheda identica, cazzo, quando... Boh. Guarda, Benito, guarda, è... No, scusa, dite, va. È una malattia infettiva, la verità. Perché non è possibile, cazzo, che una persona, cazzo, che c'ha un lineare da 600 watt e cosa del genere, cazzo, brucia un lineare... Cioè, brucia un lineare che costa più di 700-800 euro, cazzo. Così buttate in mezzo alla bombetta, io non ho capito. Io non capisco la verità. Quello che, cioè, è già la seconda volta che lo fa una cosa del genere, è già la seconda volta, ma non è possibile, ma questo è malato forte, non è una persona normale, la verità è, non è una persona normale, il discorso è quello. Antonio? Sì, ma dimmi tu, io ti do due lineari, cazzo, nuovi, con le valvole, con le leggere, cazzo, e me li bruci, cazzo, ma se sono in testa o cosa, cazzo, a un certo punto, cazzo, ti regalo, cazzo, prima ti regalo uno, poi ti regalo un altro, cazzo, a un certo punto, cazzo, si brucia, che quello... Incendia quello, cosa devo fare, secondo te, cazzo, a un certo punto? Antone, ma guarda, io ho visto, vabbè, non amplificatori lineari, però ho visto amplificatori valvolari di un altro tipo, proprio scassati, accesi senza ritegno e pilotati con addirittura anche amplificatori di chitarra valvolari con lettori CD. Quello lì aveva una EL508, la pilotta bianca spaccata, ma spaccata nel vero senso della parola, il vetro scheggiato, con alcune polarità cotte. Ma la mia domanda è questa, no? La mia domanda è questa, con quanti watt... sono entrati lì dentro concezione di pilotaggio si va in quegli apparati lì, perché è impossibile, cioè dietro, allora, quando tu l'amplificatore lo conosci, no? quando io smonto il pannello posteriore, dove c'è il, diciamo, dove sono gli ingressi femmina dei PL, di lì c'è il filo, diciamo, il positivo del secondo trasformatore, che in pratica è quello che porta la 6 volt e 3 all'anodica, diciamo al relè, è cotto, è fuso, di lì ci sono le pizze fuse, ma boh, non lo so, vai, riprendi. Ma non sono esaurito la verità, perché in pratica il vignale era a posto, la verità. Il problema, sai cos'era? Ne ha bruciato due, non uno di quei vignali, uguali, ne ha bruciato due, non solamente uno, ne ha bruciato due, ritorno in grande frequenza, hai capito? No, Antonello, guarda, io ti posso dire una cosa, quell'amplificatore lì ha ricevuto un ingresso superiore a 20 watt, perché a vederlo, è proprio seguendo lo schema che si trova, io non sono un tecnico, un radiotecnico, però uno schema elettrico lo riconosco, ha proprio il, diciamo, se io seguo gli ingressi dell'amplificatore, no? Allora dopo il primo relè che eccita la commutazione in dati XRX, sta seguendo, dopo il primo relè che si trova alla sinistra dell'ingresso, del PL femmina, io da lì in poi non ho neanche segnale, diciamo, da polo positivo a positivo nel condensatore variabile di accordo. Cioè è proprio spaccata la scheda, è parte la bruciatura delle pizze, da dove c'è il primo relè del commutatore da TX a RX, e da lì non mi va proprio niente, proprio da lì si interrompono tutti i segnali. Ho capito cosa ti ho detto, ma purtroppo è una cosa diversa, capito? Là più che altro, a un certo punto io ho dato in pratica due lineari, erano uguali, precisi, identici, la verità, mentre dice il primo ricettore mi ha dato bruciato, mi ha detto il secondo funzionava bene, la verità, perché l'ho usato io il secondo, però funziona bene, veramente bene. E te l'ascolta, facciamo così, tiro il mio, dato che è, tiro il mio e tu dici il mio. È successo così, in pratica lui ha usato quel lineare lì, quando stava usando lì dove abita adesso, ha avuto un ritorno di radiofrequenza, in pratica gli ha fatto ritorno di frequenza all'antenna, non so che cosa è successo, eccetera, eccetera. E si è incendiato, non basta. E io in automatico ho risposto, ascolta, ho detto per gli altri. Quindi a un certo punto ho detto, sono problemi tuoi, arrangiati. Ti ho dato due lineari, non uno, due ti ho dato. E terminata quello, se non ti avessi avuto neanche, e terminata a me, se non avessi avuto neanche uno di quei lineari, perché me ne sono pagati con i soldi miei, tutto lì. Non ho fatto altro, il discorso è quello lì, hai capito cosa ti voglio dire? Sì, no, vabbè, stavamo, dai. Non è che sto dicendo a te o a lui o a chi o a quell'altro, a me non è che mi interessa, è perché l'ho controllato e ti ripeto, Antonio, io non sono un radiotecnico, però qualcosina me l'ho riparata, qualcosina di, a livello di, come ti posso dire, di passione, di beh, diciamo di pazienza, quando sto a tempo perso me le controllo. Però seguito la pista e proprio va dal primo relè in poi, che in pratica c'è tutta la scheda, ma proprio incendiata, come hai detto tu, è incendiata. Caspita, quello è un danno serio, quello è un danno serio. Tant'è vero che ha spaccato una valvola, la valvola pilota l'ha proprio crepata. Comunque, Antonè, dai, si cercherà di ripararlo, però l'importante è sempre capire come fa il coccodrillo. Vai ti. Ma io ti posso dire come fa l'ippopotamo, che quando caga gira la coda e inizia a spostare cacca da tutte le parti. Bello, bello, bello, quello è bello, fare un caca party. Sì, fa l'elicottero. Schiuma patti marrone. Oh, santa pazienza. Non ho ricompreso che c'è niente, come ti fate a sfasciare la roba? No, vabbè, cosa c'entra sfasciare la roba? A parte che è del suo, quindi lo può rompere, lo può sbattere a terra, può fare quello che pare e piace. Se poi ha avuto la sfortuna di avere una radiofrequenza, purtroppo capita un po' a chiunque anche quello, Ah, vabbè, non ho capito bene il discorso. Io ho capito che qualcuno gliel'ha danneggiato, però il discorso non sono riuscito bene a capirlo. Sì, sì, sì, è successo così. Sicuramente è successo così, vabbè. Però, d'altronde, quando rompi la cosa tua, nessuno ti può dire niente. Quando è quella degli altri, non va bene. Ma io già... quello che c'ho lo metto sotto strumento, un Yamaha di Benca. Non si sa mai che succeda qualcosa. Certo. Conto se stai usando un legnaletto piccolino e cosa, se si brucia, succede la radiofrequenza, c'è che ritorna e ciccia, e non ti dà punti nulla. Conto quando stai usando roba importante. Non mi fiderei mai a lasciarlo acceso e cosa, lui sempre sotto gli occhi miei, una cosa del genere, soprattutto quelli a valvole, un Yamaha di Benghia, cioè, che poi succede che magari ha qualche corto, qualche cosa, se c'ha gli strumenti attaccati e tutto, te ne accorgi e fai in tempo. Vabbè, cosa vuoi ti dica, a me una volta è successo che avevo uno switching, un alimentatore, e si è accesa la fiammella. E meno male che ero in zona, che ero sdraiato nel divano e ho sentito questi scicchettii, queste scintillini così, e poi ho visto il fumo e ho staccato tutto. Però molte volte perlomeno io lascio anche tutta la notte acceso, tutto il giorno, ma con alimentatori Siri ora, non più switching. Quando è così bisogna stare attenti, molto molto attenti. Io temo molto i valvolari, temo come amplificatore, non si sa mai, quelli sono maledetti, sono, se... E immagini, o ti copia già cosa, o qualche cosa succede, perché mi hanno detto che sono maledetti, quindi dal giorno ci do sempre l'attenzione. Cosa vuol dire sono maledetti? Quando deve succedere, succede. Mi hanno detto che qualcheduno ha scoppiato. Ehi, già è dentro un kiss, quindi se scoppia già le malattie dentro. Io non mi fido, quando raggio di idratarvi su cui io danzi, da cammare di tu chissà cosa. Va bene, vai capi, vai. Più che altro non è che bisogna stare come Tottino finché dentro il case, già sei tranquillo, male andando ti prendi un po' di fumo. Se scoppiano condensatori e queste cose qua, prendi un po' di fumo, senti il botto, ciccio. Bisogna stare attenti quando si opera con amplificatori valvolari, che ci sono tensioni altissime, ma molti si mettono a fare cose strane, ma bisogna capire che in alcuni amplificatori gira anche la 1200 volt, eh? 1200, 1000 volt, non c'è da scherzare, quella è proprio una corrente, poi non c'è salvavita che tenga, di lì non hai salvavita che tenga, una volta che il corpo umano prende la 1000 volt, ma basta anche la 600, 700 volt, e hai finito, boh, no, non c'è niente da fare. Antu, fin quando è dentro il case, come ha detto lui, prende, scatta la luce, fai un corto e tutto finisce lì. Il problema è quando hai le mani in pasta e di lì non lo racconti. Di lì non lo racconti, sono tensioni altissime. Antonello è caduto dalla sedia. Antonello, come mi ascolti di lì da te? Però devi essere serio. Sono qua, non ti preoccupare, stavo applicando piccato aggiornarvi piccato come sorella più che altro, dimmi tutto, ma passaggio? Guarda un pochino la radio. Te gusta la rigusta? Guarda un pochino. Mi gusta, non c'è problema. È chiara, è satura, devo aumentare l'amplificazione, cosa devo fare? No, va bene, è chiara così. Quindi Tino, hai visto? Antone, con che radio stai uscendo? Secondo te cosa? Dillo tu. Col 140, sì? Sì, bravo, ci sei arrivato. Guardami il segnale, portante bianca, sentirai la ventolina che è di un'altra radio, e guardami il segnale, adesso modulato com'è, dovrebbe essere sempre uguale perché l'FM non dà picchi di niente, guarda un po'. 9,20. Quindi ti, attorno, no? Eia, attorno. Così è. Antone, lo sai cosa sto usando? No, dimmi. Sto usando, aspetta che spengo questa roba. Sto usando il Superstar, ho cambiato i condensatori ieri. Sto usando il Superstar con un amplificatore, un Amtron. In classe A lui adesso sta togliendo, sta erogando 50 watt, in classe A, e in assorbimento a 350 watt, classe A. Guarda che radio che ha questo affare, è chiara? Sì, è abbastanza, quello non c'è problema, sei perfetto. Questo qua è 50 watt, senza, sto usando, considera, voi lo conoscete meglio di me, il Turner con Superstar, amplificazione del Turner a 3/4 e Mackie Gain del Superstar a 3/4, modalità FM, questo qua monta una EL509. Lo sai che condensatori li ho messo, Antone? Lui montava i 120 microfarad 450 volt e gli ho messo i 200 microfarad 500 volt. Vabbè, a voglia, basta, avanza. Quindi diciamo che questa cosa qua si può lasciare in trasmissione anche 20 minuti. Pensa che ha una 509 nuova. Quando questo qua è un amplificatore solo per FM, è un amplificatore solo in FM, in AM, se noi andiamo in AM te lo faccio sentire, fa schifo, è tutto strappato, tutto schifoso. E sto entrando con, gli sto dando un ingresso di 10 watt, tondi. Guarda che bello. Lo so, non ti preoccupare. A proposito, adesso più che altro mi sto tirando più adesso, sarà un mese più che altro, la verità. In pratica l'857D 126 euro, quello che mi è stato fregato cioè in pratica non ho fregato, inculato io, hai capito? Quindi a un certo punto 857D 126 euro dalla Cina con furore, quadri banda a posto, come quello che avevo io, preciso identico, tale uguale. E invece quando mi è stato fregato, a un certo punto, perché mi è stato fregato a un certo punto, come corso del corso, a un certo punto, a un certo punto valeva 300 euro, neanche, anzi forse 200, la verità, 200, forse 150, per come aveva detto quella persona lì, di Olbia. Quindi a un certo punto, adesso io me lo riprendo, me lo ricompro con l'apparato lì, però solo per quello ce l'ho e me lo tengo. Il discorso è quello. Ah, io Antonio sono mezz'ora in pausa io, perché tu sei cazzo peggio di Falcone, ma veramente peggio di Falcone. Quindi fai passaggi più ristretti, possibilmente. Adesso vedi, mi hai fatto dimenticare una cosa, ti devo dire una cosa, mi sono dimenticato. Dimmi tutto, intanto quella panica me la prendo, dai cinesi, l'857D, 127 euro, non me ne frega un cazzo, a un certo punto. 500 e passa euro, anzi 300 l'ho presi, la verità. Perché mi ha fottito, già lo sai anche tu. Quindi a un certo punto me lo riprendo, non mi interessa a me niente. E quello che posso dire, vabbè, cioè, mi hai capito, capito, a un certo punto dimmi tutto. Ascolta, ma non regali quel più 5 per il Kenwood? Se ti regalo il più 5 per il Kenwood, me lo regali? Più 5 cosa? Il microfono cosa? Se più 5 cos'è? Il microfono è no, tanto tu non lo stai usando. Ah, vabbè, certo che te lo regalo, bastava richiedermelo, scusa. Vabbè, così me lo attacco anche io. Vabbè, non c'è problema, io pensavo di avere un'altra cosa, boh. E te lo vedi quando vuoi, non c'è problema per quello. Antone. Sì, mi, non cominciare anche tu, mi. Lascia perdere cosa, non dargli il mio più 5, che dargli come si chiama, un preservativo, dargli quell'altro, dargli quello. Non va bene, No, Antone, io ti chiedo solo una cosa. Se puoi farlo, se puoi farlo, perché poi potrebbe essere anche troppo impegnativo arrivato a un certo orario, prova a mettere la saporetta originale in quella radio, che voglio sentire una cosa. Me gliela fai questa cortesia, Gavino? Nel frattempo riprende Antonio, che farà girare Pertino, perché io devo entrare un attimino al QTH piccolino. Vai Antonio. Antone, metti, prova questa cosa con la saponetta originale in quella radio, perché è un gusto che mi voglio togliere, sentirti con la saponetta originale. Dai, è un... Prova. Dai, rilancia ad Antonio che poi quando finirà andrà Pertino, perché io devo andare un attimo al QTH piccolino e riprenderlo subito. Vai Antonio. KK, vabbè, te lo dico dopo, va. Ma non stai usando la Grazioli? No, non sto usando la Grazioli. Sto usando quella come, diciamo, la Sirio GPS 5 ottavi. Non sto usando la Grazioli. E ha messo gabizzato via. Ok, vai con TH piccolo, sennò un macello. Allora, sto usando il microfono saponetta. Va bene così? Benissimo. Aspetta però che si è allontanato, capito? Ti volevo sentire con la saponetta, perché a lui piace una modulazione tipo verticale, capito? Non gracchiante né prepotente, una modulazione più simile al verticale, ecco. E questa è una particolarità che con la saponetta riesci ad avere. Vai Antonello, ci sono, riesco, ho fatto un nodo, prova a vedere. Oh, per carità, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Dove c'è il microfono, dove c'era? In cucina, Antonello? In cucina? Boh. C'è il Mac in basso allora, Antonello. Infatti. Allora, facciamo un pochino così. Guarda adesso un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. No, Antonio, rimettiti come di prima. Ricomponiti. Vabbè. Aspetta. Te 4 5 6 prova Antonio. 1 2 3 4 5 6, prova, guarda un po'. Hai poca radio, secondo me devi aumentare il microfono. Aspetta Antonio, metti il più 5 a quella radio lì, che tanto ha le stesse connessioni, giusto? Vabbè, ma sono un bel che non lo uso l'apparato, il discorso è questo, hai capito cos'è il discorso? Fammi usare l'apparecchio per un paio di giorni, dopodiché mi dici che va bene o non va bene, il discorso è questo. Non te farlo oggi, hai capito? Guarda come esco io, con un portatile, funziona benissimo. Cioè Antonio, adesso te lo dico proprio chiaramente, Antonio, sto uscendo meglio di te e sto usando un portatile. E tu stai usando un apparato professionale, ma ti rendi conto? Adesso non la prendere a male, perché... Però io volevo fare questa cosa qui. Antonio, sto usando un portatile e sta uscendo, e la radio è più chiara della tua, che sta usando un apparato professionale. È quello che... Cioè, ascolta a volte quando ti dicono le cose. Tu prendi, ti dicono sì. L'altra volta con Franco, l'altro pomeriggio, sarà un mese fa, quando ti abbiamo fatto un setup per la saponetta ed eri una scheggia, era bellissima quella radio, era bellissima. L'hai toccata di nuovo, ti buona scacciavitaffa. Purtroppo Antone, io ti ho fatto quella domanda, ti ho fatto fare questa prova per quei motivi lì. Antonio sta arrivando più forte di te, ma non tanto più forte, la modulazione è molto più gradevole, mi segui? Molto più gradevole, quella di Antonio della tua. Adesso segui Attino che ti dirà cosa fare, però concentra, cioè mettiti in coso e guarda cosa ti dice e vedi, prova l'MV5 e guarda un pochino cosa puoi fare. Guarda un pochino cosa puoi fare, Antonè. Perché poi se a te ti va bene così, va bene anche a noi. Però vai, riprenditi, io mi allontano un attimo. Aia. No, vabbè, io non so che microfono stavo utilizzando, Antonello, però se metti il più 5 ti posso dire un pochino di alzare o abbassare i toni, l'amplificazione, Antonello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Adesso che microfono hai tu? Nel più 5. Vedi, già hai cambiato tonalità di modulazione. Infatti, ho fatto per quello. MB più 5, ecco. Vedi che già è chiara la modulazione ora. Sì, che già. Però quando si va in FM in quegli apparecchi, se non mi ricordo male io, ci vuole un altro setup, ci vuole. Perché dalla M cambia un casino, cioè. Adesso io sono da un bel tempo senza usarne. Antone, dimmi. Sì, molto amplificato. A me sinceramente piace questa modulazione, però prova a togliere il processore tu. E poi magari facciamo un'altra prova. Ok. Processore tolto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Abbassa l'amplificazione, a me mi sembra che il processore l'hai inserito tu. Comunque, abbassa l'amplificazione. Il processore è tolto, la verità, Quindi... Sei troppo amplificato, devi abbassare leggermente il mic gain, tra la M e la I. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ho abbassato il mic gain. No, è sempre troppo un rumore di sottofondo. Abbassa il volume del microfono. Guarda un po' adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso l'hai abbassato un po' troppo, dimmi una cosa, il mic in dell'apparato, a quanto ce l'hai? Al minimo ce l'ho, sulla C. Dove? Sulla C. Sulla C è troppo alto, lo devi abbassare tra la M e la I e poi aumenti appena appena l'amplificazione del microfono. No, non va bene così, è inutile, scusa, non va bene, è inutile. Ma come fai a dire, ma tu ti senti quando parli? Certo, so cosa vuol dire, hai capito? Quindi a un certo punto... Ma se sei quasi perfetto. Cazzo, boh. Allora, il mic gain è troppo alto della radio. Lo devi abbassare appena appena e poi devi alzare appena appena il volume del microfono. Allora, vediamo un po'. Vado un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va bene. Allora, per me l'hai alzato comunque. Poi io quando avevo l'MT60 era a mezzo, era usciva un bel bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aspetta originale, io ti faccio vedere che adesso stacco tutto, attacco il Kenwood e metto la saponetta originale e poi ti faccio vedere che l'MT60 col Kenwood senza processore, l'MC60 col Kenwood senza processore esce uguale alla saponetta, uguale, perché l'MC60 pompa solo col processore inserito in tutti i Kenwood, e questo è un dato di fatto. Se io prendo la saponetta e andiamo senza processore con l'MC60 e con la saponetta escono nello stesso modo anche l'MC80. No, quindi lui deve trovare un compromesso, lui deve ascoltare a Tino, deve mettere il mic gain come glielo dice lui e deve soprattutto regolare i toni lui ce li ha troppo alti in quel microfono. Vai Iti. Ma se non lo fa, allora io ho detto il mic gain della radio deve essere tra la M e la C. Ascoltami Antone, prova a metterlo in mezzo. Lo so che il cursore è una cagata, quello, guarda, il 140, le cose brutte che ha sono proprio i cursori del PVR e del Mickey. Il Mickey mettilo tra la M e la C se riesci. Ascolta, è come hai detto tu, tale è uguale, quindi basta, il discorso è quello. Non è possibile, cazzo, a un certo punto, come dici tu, no, non va bene. Quindi a un certo punto, sono diverse le cose, hai capito? Il discorso è quello. L'ho regolato così. È sempre stato così, la verità. A un certo punto. Quello che devo fare, secondo te, svego, cioè, chiudo il baracchino,